Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Amici di Blu Radio Veneto, buonasera a tutti. Oggi è l'8 ottobre del 2013, sono le 21:03. Una buona serata vi arriva da Flavio Bilato e un'altra da Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, anche questa sera musica live, li stiamo abituando proprio bene i nostri ascoltatori, quelli della fascia serale che vogliono godersela tutta in luogo di guardarsi un film in televisione o guardare qualche documentario che ormai forse annoia, o le notizie che sono sempre uguali. Uno sceglie al martedì sera di ascoltare la musica live, quindi sceglie Blu Radio Veneto, e quindi un rinnovato ben ritrovati a tutti. Allora, anche questa sera abbiamo ospiti che fanno un po' di strada per venire a trovarci, e noi li ringraziamo perché ci onorano di questa loro prima fatica. Speriamo di ripagarli in bene in questa serata, e diamo quindi il benvenuto a Gabriele Finotti e Misfatto. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, buonasera, buonasera Gabriele, buonasera Alberto Zucconi, che in questa serata ha accompagnato Gabriele Finotti, anche perché i Misfatto sono molti di più che due, no? Mi sembra sei, siete in formazione completa. Esatto, Gabriele, ebbene sì. Sì, siamo in sei, che è un numero che prediligo perché è anche il giorno del mio compleanno, il 6 ottobre, così mi faccio gli auguri da sole, che è appena passato. Appena li vedi, quindi mi sono fatto gli auguri in Veneto, ecco. No, veniamo da Piacenza, anche se i componenti della band sono di, e ne parleremo durante la trasmissione, certo, penso, certo, sono un po' di varie zone del nord Italia. Comunque il sottoscritto Gabriele qua, il mio socio cantante Alberto, siamo della zona di Piacenza, comunque, e precisamente quindi Gragnano Trebbiense, così rendiamo onore a questo paese sperduto. Sì, sì, che nessuno sa dov'è, però quando meglio si parla bene, no, vabbè, non so cosa si perde. Beh, assolutamente, sicuramente in mezzo alla campagna, la pianura vicino al Trebbia, che è quel fiume. Lungo il fiume ci sono anche dei vigneti, ottimo vino da quelle parti. Bravo. Ecco, quindi, ma anche qua non si scherza, eh? È vero, sì, sì. Soprattutto anzi, quando si è ubriachi meno, non si scherza poi. Vabbè, allora abbiamo già fatto una piccola pausa da Enoteca e continuiamo a parlare con Gabriele Finotti e Misfatto, il nome del gruppo, perché questa sera c'è la presentazione di un disco che ormai da qualche tempo sta andando bene, mi sembra di aver capito, perlomeno dalle recensioni che abbiamo letto, e quindi scopriremo sempre cose nuove appunto dei Misfatto. Il titolo di questo CD, mentre già in preparazione si diceva con Gabriele anche un nuovo disco 2014, quindi speriamo di vederti ancora quanto prima, ancora prima della fine della trasmissione ti abbiamo già invitato per la nuova presentazione per la prossima puntata, per la prossima puntata. Allora, 11 eroi morti è il titolo un po' forte di quello che è il lavoro di Gabriele Finotti e Misfatto. Quindi Gabriele, ci vuoi dare una spiegazione d'entrata di quello che è un titolo così particolare? Ma il titolo è sempre stata la situazione che ha fatto più incuriosire questo lavoro, che è nato proprio in una data che lo rappresenta, che è l'11 novembre 2011. Ci siamo esibiti in un teatro di Piacenza, tra l'altro ha avuto molto successo. Qui nella prima fase ci siamo un po' travestiti, perché chi ha conosciuto questo disco comunque ha visto l'immagine, è un'immagine abbastanza forte, con delle tute bianche in cui a volte ci hanno scambiato per degli imbianchini, a volte per dei RIS, a volte per dei, diciamo, operatori biologici. In realtà la tuta bianca, nella sua asetticità è il simbolo di questo inizio secolo, quindi un po' di questi eroi morti, 11 legato al 2011, legato all'11 settembre 2001, cioè tu hai connotati, diciamo, del numero 11. Gli eroi morti, diciamo, molte volte nel disco si incrociano, se ne parla, sono soprattutto dei sacrifici di persone comunque che non vogliono proprio essere eroi ma lo diventano, ecco. Anche se nel disco, lo sottolineo sempre, diciamo in questi due anni di portarlo in giro con la band, in locali, in interviste radio, lo ribadisco sempre, il disco non è mai esplicito a livello né politico né sociale, perché non si vuole dare un'identificazione comunque strettamente politica a questo lavoro, ma più che altro comunque emotiva, psichedelica, che richiama chiaramente comunque anche un argomento politico, sociale del momento, duro momento che stiamo vivendo. Benissimo, abbiamo fatto un cappello intenso, vale la pena poi ripeterlo durante la serata, perché è assolutamente importante quello che è il messaggio che Gabriele Finotti e Misfatto vogliono dare attraverso queste 11 tracce, appunto, di 11 eroi morti, scritto proprio intero, per intero. Bravissimo, no? Eroi sì. Morti, quindi bisogna anche avere il fiato per dirlo tutto insieme. E quindi iniziamo con la programmazione musicale per far capire anche ai nostri ascoltatori di che musica stiamo parlando. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato questo primo pezzo di Didi Ross, si intitola e fa parte appunto di 11 eroi morti, questo lavoro che è venuto a presentarci Gabriele Finotti e Misfatto, un'atmosfera che o uno fugge o uno resta incollato, quindi due cose in contrasto tra di loro, e di contrasti ce ne sono molti anche all'interno dei testi di Gabriele Finotti. Allora questo Didi Ross che comincia così il disco con un'atmosfera cupa, dei cori inquietanti ed eterei, poi con delle urla e delle deviazioni sonore ed esperimenti molto molto particolari. Gabriele, com'è nato questo pezzo? Il pezzo è nato come a volte nascono casualmente le canzoni, utilizzando, come anche qua Alberto sa, uno strumento che abbiamo in sala prove, che è lo Jupiter 6, che è uno dei primi, diciamo, synth fine anni 70, inizio anni 80, con il MIDI. Sì, quello che faceva concorrenza al Moog. Bravissimo, ecco, sì. Chiaramente il Moog è un po' il padre, questo sì. È un po' il figlio, diciamo così. È uscito questo suono iniziale molto inquietante con cui inizia appunto il primo suono musicale, perché il primo suono è l'11 costante, diciamo, della voce. Da lì è nato Didi Ross, proprio come dicevi tu, è nato il testo, è nata questa atmosfera in cui in realtà c'è questa situazione di attesa che non finisce mai, finisce troncata, e quindi è nata questa canzone. Tutti i suoni attorno sono stati un po', diciamo, la conseguenza di quest'aria iniziale, di questi cori, di questo suono di synth che richiama appunto una situazione di continua attesa. Sì, che poi non si rispecchia comunque nel resto del disco. Quindi questo rimane un tema a sé, perché poi, diciamo, abbiamo modo di ascoltare un rock più, diciamo, intenso e battuto in questo caso. No, esatto, poi comunque c'era anche un'intenzione di creare una sorta, come appunto dall'idea dell'attendere di intro. Da Diros è diventata una canzone a tutti gli effetti. Però alla fine diciamo anticipa, diciamo, come gusti musicali, chi ama un disco che ha, diciamo, la prima canzone che è come se fosse un intro. A me è sempre piaciuto quello, ecco. Una cosa prima ha citato Gabriele, caro Flavio, ha parlato della tuta da imbianchino. A me è venuto in mente una cosa, e Gabriele era d'accordo con me. A me è venuto in mente i Divo si presentavano una tuta bianca. Era quel punk americano, post-punk americano. Assolutamente estremisti. No, erano estremisti, certo. Questo primo pezzo, da estremista nel senso positivo del termine, è estremo, e Divo poteva ricordare a grandi linee, chiaramente, il messaggio che portava avanti Divo. Sì, ci mancava solo il cappellino. Esattamente. Erano un po' più veloci loro. Sì, erano più veloci. Sfruttavano un po' quello che era il periodo punk americano, perché comunque con il punk inglese aveva poco a che fare, almeno a mio parere. Però era un messaggio forte. Molto forte. Esattamente. Sì. E quindi fa piacere che anche in questa serata si siano ricordati Divo, che forse da 30 anni non sento un disco. C'è uno che li ama fortissimamente, sì. È Marco Borgato, ha tutta la discografia completa. Marco Borgato, nostro collaboratore del venerdì sera. Per ascoltare i Divo dovete sintonizzarvi con Blu Radio Veneto e durante la programmazione di Marco, che salutiamo. Allora torniamo a parlare con Gabriele Finotti, Misfatto. E anzi, più che parlare, far ascoltare già un pezzo, perché Gabriele è arrivato con la sua chitarra. Chi canta è Alessandro Zucconi, poi avremo Alberto Zucconi, e poi scopriremo anche chi è Alessandro. E allora un pezzo, questa volta già una prima sorpresa, perché noi ci siamo preparati sul disco 11 eroi morti, ma voi ci fate ascoltare anche dell'altro. Sì, prima di introdurre e entrare, diciamo, a sviscerare 11 eroi morti, vogliamo far ascoltare Omega, che per far capire la storia di una band, una canzone del 2000, una canzone un po' più positiva di 11 eroi morti, così magari ammorbidiamo l'ascolto di quelli che possono essere gli altri brani live e proseguiamo con calma per quella che è la narrazione di 11 eroi morti. Omega è una canzone nata, diciamo, per seguire Stelle d'Oriente, ecco. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo qui a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live. Loro sono Gabriele Finotti e Misfatto, questa è Omega. Mm-hmm. piace il cielo. Ho venduto la notte e mi ritrovo spento. Forse soffrirò con il gioco dell'insonnia. Spegnersi di nuovo non è facile, non è facile sopravvivere. Appena pronto partirò, forse solo appena sera, sotto il segno che tu chiami Omega. Dimensione zero, la semplicità, così poco diffusa, chi la seguirà? Cerco di fuggire, sempre più veloce, mentre aspetto il segno irrimediabile. Non è facile sopravvivere. Appena pronto partirò, forse solo appena sera, sotto il segno che tu chiami Omega. Senza veli, mentre balli con la fortuna, ogni sera dolce è sempre più noiosa. Dopo il volo della notte con la luna, sotto il segno che tu chiami Omega. Canzone in acustico di Gabriele Finotti e Misfatto, alla voce Alberto Zucconi. Questa canzone di qualche anno fa porta il titolo di Omega. Gabriele, di qual era? Era da Chaos 2000 o da Invisibile questo, da questo pezzo? Era da prima ancora. La prima ancora. È ecco di... qua. È del 2000 questo pezzo, è dall'album omonimo Misfatto, un album registrato a Sansepolcro d'Arezzo con la Disco Team. Adesso le edizioni sono passate sotto la casa editrice che è la Level 49, era un modo di ricordare il 2000, che era un anno ancora spensierato, senza, diciamo, sì, cambi epocali. Doveva ancora arrivare l'euro. Doveva arrivare l'euro, sì, sì. Doveva arrivare l'euro, dovevano arrivare gli aerei, dovevano, sì, ecco. Una ballad, possiamo dire che è una ballad sì, spensierata, in ricerca di quello che è il, diciamo, il mattino seguente una nottata di festa, nata proprio a un festival dove avevamo suonato a fine anni 90, e quindi, certo, una cosa abbastanza spensierata. Allora, è cominciato tutto spensieratamente ancora negli anni 80, quindi siamo qua per festeggiare 33 anni di onorato servizio come misfatto, no? Perché così le notizie che abbiamo preso dicono che già voi eravate attivi alla fine degli anni 80, e quindi nel 93, per la precisione, avevate già all'attivo ben due dischi, Gabriele. Sì, in realtà, diciamo, rapportati a oggi, e poi sono qua con un valido cantante comunque di una generazione nuova, i demo tape su cassetta erano dei veri e propri dischi. Nel 93 è uscito un inedito, poi il cantante di allora aveva smesso, e noi, tra l'altro, raccontando quel periodo, nel 90, alla vigilia del secondo, avevamo suonato qua a Padova, al centro sociale Pedro. Allora, bravissimo, Pedro, al centro sociale Pedro. C'è ancora? No, credo di no. No, è stato chiuso. Infatti anche io non ero al corrente. No, però erano quegli anni, noi facevamo comunque punk rock. Allora, adesso ci siamo proprio raffinati, insomma, è passato molto tempo, ecco, da allora. Ma si cominciava col punk rock, però. Esatto. No, nel 90 era già molto comunque diffuso. Sì, certo, certamente. Mi ricordo un aneddoto bellissimo del Pedro, che nel sottofondo, dopo il soundcheck del concerto, tutto molto più spartano di adesso, c'era un signore che con sotto Smoke and the Water diceva che l'aveva fatta lui. Perfetto. Ma lo diceva seriamente, ecco, quindi era convinto, ditemi voi una sfumatura, quindi, ecco, non l'ho mai capito. Magari era vero, sì, sono i misteri della sarà stato Ruggero Acqua in questo caso, no? L'antidoto italiano Roger Waters. Benissimo, allora, Gabriele Finotti e Misfatto, abbiamo già commentato piacevolmente questo pezzo che riguardava appunto gli anni 2000, ricordando anche un tuffo nel passato, quello che erano la fine degli anni 80. E una cosa, voi avete dedicato una canzone anche alla vostra città in quel periodo. Sì, non la ricorda nessuno, addirittura c'era il primo cantante, Luigi Boledi, e la canzone si chiama Primogenita, è una canzone comunque che non è mai stata ufficialmente, diciamo, sfruttata, perché a breve poi lui smise di cantare. Tra il 93 e il 94 entrò Alessandro Chiesa, che è stato cantante dei Misfatto fino al 2010, ecco. Ma l'avevi scritto testo, pezzo? Il pezzo l'aveva scritto, io avevo scritto le musiche, il testo l'aveva scritto Luigi Boledi, ho capito, che era l'autore dei testi dei primi Misfatto dei primi anni 90, mentre io mi occupavo delle musiche insieme comunque agli altri. I Piacentini cosa hanno detto? Piaceva? Ma piaceva, il pezzo piaceva. Sì. Poi c'è stato purtroppo questo passaggio del gruppo, insomma, non essendoci più lui alla voce, sta benissimo. Chiaramente. È stata una scelta, perché sai, certo, poi lì eravamo proprio ragazzini e, diciamo, lui è stato deciso da subito che forse a volte aveva questa bellissima voce, aveva questo messaggio a volte anche politico che a me non sempre piaceva, però avevamo il giusto seguito, e Primogenita era una canzone, diciamo, che descriveva Piacenza un po' come un crocevia, diciamo, di varie regioni, com'è. Sì, che poi è vero, perché c'è... Perché Piacenza, in effetti, sì, correggimi se sbaglio, così sentiamo anche cosa dice Alberto, è un po' lombarda, è un po'... genovese, è emiliana, perché è molto, sì, emiliana, l'accento si sente, sì, l'accento è emiliano, sì, sì, sì, emiliano, però è un crocevia, e poi anche un po' torinese, un po' piemontesina anche, quindi sì, un po' po' di tutto praticamente. Sì, esatto. Te cosa dici, Alberto? Tra l'altro, almeno una signora del Piemonte mi ha proprio detto che quando viene a Piacenza pensa ad essere in Piemonte. Allora abbiamo discusso molto su questo, perché sostengo che sia molto più lombarda invece come città. Certi piacentini ci tengono giustamente a sottolineare ad essere emiliani. Ma c'è il Granducato di Parma e Piacenza e Guastalla, ti ricordi? Sì, quindi, mi ricordo che l'ho studiato. mi ricordo anche il proverbio piacentino ladro assassino. Ecco, vedi, che si dice anche coi vostri vicini di casa, qua, Ma non assassino, Però non assassino. Assassino. No, dei vicentini si dice a Magliagatti, con rispetto. Perché tiravano i sassi ai duchi. Bravo Alberto, un popolo di proteste. Vedi, qualcosa viene sempre fuori. Sì, no, infatti, perché per Vicenza, per Vicenza in effetti ho conosciuto parecchi vicentini. Magnagatti, secondo noi. E comunque voi, la vostra è Radio Blu Veneto, e quindi rappresenta tutto il Veneto. Certo, però sì, a volte me l'hanno confermato gli stessi vicentini, quindi io mi attengo a, insomma, se me lo dice, se non me lo dice comunque un padovano, un veronese, me lo dice un vicentino, ci posso credere. Perfetto. Benissimo, salutiamo anche gli amici di Vicenza che ci stanno ascoltando. Non prendetevela, no? Magliagatti è una storia vecchia. Ciao a tutti, no. A me Vicenza è molto simpatica, certo, come certo. Padova e come tutto il Veneto. Grazie, quindi era un messaggio scritto, se non sbaglio. È vero. Stiamo scherzando. Bene, torniamo allora a parlare di musica sempre con Gabriele Finotti. Allora è il momento di ascoltare un altro pezzo del CD che si intitola 11 eroi morti, che stiamo pian pianino guardandoci dentro a cosa succede all'interno del disco. Un altro pezzo si intitola La vendetta del perdono, eccolo qua. Del mistero, tra i fondi Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Sempre all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto abbiamo ascoltato un pezzo di Gabriele Finotti e Misfatto, La vendetta del perdono, tratto dal suo lavoro che si chiama 11 eroi morti. Questa, La vendetta del perdono, che è un titolo che offre un po' un controsenso. Il perdono proposto come vendetta, come se si potesse perdonare sempre, anche durante la guerra. Come mai questo sentimento così forte che va al contrario, Gabriele? Sono ispirazioni di canzoni, sicuramente l'animo pacifista, diciamo, che ho... È sempre avuto, Che ho sempre avuto, ha esaltato questa cosa, che comunque non vuol dire porgere l'altra guancia, vuol dire comunque il sapere perdonare, andare oltre in situazioni che possono comunque essere legate sia a storie d'amore, che possono essere legate sia a storie di confini calpestati, in cui una scintilla può diventare comunque un eccidio, uno sterminio, come abbiamo visto negli anni 90, sì, anche qua vicino dall'altra parte del mare, no? Sì, certo. L'abbiamo vista, vissuta in pieno, infatti bastava guardare dall'altra parte l'orizzonte marino. E niente, comunque tu proponi appunto il perdono come grande alternativa, soprattutto anche nel tentativo sempre e comune innato dell'uomo, anche quello di mediare in certe situazioni, o di saperlo fare per quanto si sì, possa. Sì, il senso è questo, diciamo che il perdono è la vera grande vendetta, è questo diciamo estremo che si crea nel titolo, che ti dà già un significato, questo, no? La vendetta del perdono significa che la vera vendetta è il perdonare. Quando ad esempio succede diciamo da un'azione una reazione, e poi di solito succede sempre la controreazione, invece a quel punto forse la vera vendetta è perdonare. Non è facile per l'uomo farlo, perché non è nel suo istinto animale, ecco. Certo. Questo finale con le tastiere, questo pezzo che ha un certo significato, finale con le tastiere, secondo me. Sì, assolutamente. Intanto salutiamo Pierpaolo Baione, che è uno dei Misfatto ed è uno degli storici rimasti della band che non è potuto venire stasera, e sempre presente con il suo organo, con i suoi suoni. Sì, il tappeto finale è un ricordo sonoro anche a certe musicalità. Tu hai citato, mentre il pezzo andava, Flavio, tu non hai sentito, un po' prog, ma prog tra virgolette, non è proprio prog, però quel detto di prog che non fa mai male alla salute c'è sempre. Certo, noi siamo molto amanti del prog, diciamo, italiano, prog quello comunque bello tosto, esatto, bello. Esatto, poi vabbè, non è proprio prog, siamo una band molto amante di dei Motor Psycho, che è un gruppo norvegese che, diciamo, nell'underground musicale rock prog comunque ha un seguito devastante, fanno un album all'anno, però logicamente facciamo, ognuno ha la sua creatività, facciamo un tipo di musica comunque tendenzialmente ascoltabile, ecco. Anche noi ci lasciamo andare a volte in canzoni anche che superano i 5 minuti, che arrivano anche a 6-7 minuti. Però però sono dell'idea, Alberto, che comunque voglio sempre chiarire che è comunque il bello anche di questa trasmissione, e comunque siamo sempre amanti dell'album. Poi logicamente a livello commerciale si prova anche a cercare dei singoli che possono piacere a più persone, perché altrimenti non saremmo qua a presentare un disco e ci faremo i nostri pezzi, ce li ascolteremo a casa nostra e siamo tutti contenti. Come ha detto giustamente Flavio, bisogna mediare anche in questo. Sempre mediare, sempre. Benissimo, allora ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che questa trasmissione la stiamo vivendo in questa serata in diretta, però poi sarà anche riproposta all'interno dei nostri archivi sonori, quindi all'interno del nostro sito internet www.bluradioveneto.it, dove adesso potete cliccare per andare con la diretta della nostra trasmissione, quindi in streaming audio. Potrete anche riascoltare questa trasmissione e non solo, ci sarà anche un link dove potrete vedere alcune foto scattate durante la serata, tanto per dare anche un volto a chi si è, come dire, esibito in questa serata. E ricordiamo, visto che stiamo parlando di internet, anche quelli che sono i siti di riferimento per sapere qualcosa di più delle produzioni artistiche di Gabriele Finotti e Misfatto. Quindi c'è un sito che è www.misfatto.it, un altro sito che è gabrielefinotti.it e poi c'è il sito della casa Level 49.it, dove sono pubblicizzati gli album recenti, diciamo. Poi invito, se posso, a guardare i video. Abbiamo parecchi video interessanti dell'ultimo lavoro, in particolare due, La Vendetta del Perdono e De Diros, che abbiamo ascoltato prima, dove ci cimentiamo sempre per la gioia della band dei Misfatto con le tute bianche in due location particolari, per farvi incuriosire. Una location, diciamo, e salutiamo gli amici di Genova, diciamo di un palazzo dove abbiamo suonato nel 2012, dove abbiamo dormito, in realtà era il Festival delle Periferie di Genova, sono dei nostri grandi amici, dove c'era molto caldo quella sera, e l'estremo, dove invece La Vendetta del Perdono, abbiamo girato il video, almeno gli esterni, è girato in due punti diversi, in mezzo al freddo e alla neve del febbraio 2012, e qualcuno si è ammalato, no? Poi io ho perso 2 chili a causa del freddo. Per il freddo. Bene, quindi sono... YouTube tanto è molto semplice, intuitivo, basta mettere Misfatto, Gabriele Finotti, e escono tutti, diciamo, tutti i nostri video più interessanti degli ultimi periodi. Certo, ma non di solo audio e non di solo video, parleremo all'interno di questa serata, affronteremo anche altri temi molto belli per vedere appunto l'intensità artistica di Gabriele. Allora, un altro appuntamento live questa volta, perché poi parleremo anche di una bella cosa che ci ha portato Gabriele, ma prima ci fa ascoltare questo pezzo che noi conosciamo già molto bene in italiano. In questo caso questa è una trasposizione di questo pezzo in inglese, si intitola Perpetual, eccolo qua. A trembling of fingers, you smile at the poor rat hesitating, he desperately lingers. We watch hoping you'll keep him waiting, but you take the cup and hold it up. Oh, might I drink too? The silent sums. I wish you could become a perpetual. Lips and blue teeth part, taking the potion. It's bitter, but not vile. You show almost no fear or emotion. Hang up più suspended. Our worst fears, the three thought may have ended. Perpetual, perpetual, perpetual, perpetual. Blu Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato Perpetual, Gabriele Finotti è Misfatto qui in questa serata Blu Radio Veneto, Blu Time Live, continuerà fino alle 23 sempre con protagonisti Gabriele e Alberto per l'appunto in questa serata, mentre salutiamo anche tutti gli altri Misfatto che ci ascoltano da casa, ma la prossima volta saranno invitati anche loro, quindi vediamo di riempire per bene gli studi. Allora, questo Perpetual era la diciamo libera traduzione inglese di quello che è un pezzo che da 11 eroi morti suona come incudine, un incudine che aspetta il martello che è senz'altro più leggero dell'incudine, e quindi questo per rafforzare ancora una volta dell'idea che di fronte agli uomini duri e cattivi non basta, non serve la cattiveria, quindi il martello assolutamente non serve, perché sarebbe una piccola cattiveria in confronto a quella che è, diciamo, una bomba negativa in questo caso. E in Perpetual invece come è stata questa libera traduzione, Gabriele? Ma tanto chiudo il discorso di incudine, che è veramente bello quello che hai detto. Voglio sottolineare che è una canzone, anche se non sono una canzone d'amore, no? Tutti abbiamo vissuto, nel senso, e viviamo e vivremo, chi lo sa, delle situazioni di questo tipo, no? E l'incudine e il martello sono le classiche sensazioni, diciamo, di situazioni, diciamo, d'amore, di sentimento non positive, perché comunque il martello che arriva sull'incudine dà l'idea proprio a volte di quanto possa far male, no? Quel martello lì, immaginate che ci sia un ditino di mezzo. Mamma mia. Quindi vedetela anche in questo modo, come immagine visiva. Ho avuto un'esperienza e mi frizza già la mano, eh? Quindi tutti, sì, tutti l'abbiamo vissuto e viviamo sempre queste situazioni. Detto questo, Perpetual che abbiamo fatto con Alberto e sul vinile, sul fratello gemello, perché il numero 11 non poteva non avere il fratello gemello, quindi 11 erano i morti, nel suo essere 11 ha un Eleven Dead Heroes, quindi ha un vinile, e sul vinile esiste una canzone che è Perpetual, che è la trasposizione in inglese di incudine, molto libera. Ci siamo avvalsi di un buon autore, un ottimo autore piacentino, che è David Stockdale, piacentino d'adozione, in realtà è nato, penso, a Los Angeles, Alberto, no? Insomma, zona Los Angeles. Comunque ha fatto queste traduzioni libere, essendo anche un insegnante comunque di lettere, e Perpetual è la storia, comunque, niente po' di meno di quello che è stato un po' l'avvelenamento di Socrate. Pensate voi, cioè, 11 non c'entra proprio niente, in effetti c'entra poco, però però Socrate è un esempio di un eroe morto. Esattamente. Un critico, un innocente, no? Un critico ha scritto, certo, del sapore di antico, al di là di Socrate, anche musicalmente ricordava certe cose. A me in questa versione che hai fatto adesso, molto stringata, molto forte, sì, no, abbiamo fatto una ricordava versione molto acustica. Pearl Jam, qualcosa di Pearl Jam, inizio di carriera, periodo di Ten. Un complimento. Ho sentito questo, chiaramente non a livelli dell'insieme dei suoni, dello stringato dei suoni, cioè proprio essenziali. E mi ricordava quel periodo là, all'inizio dei Pearl Jam, quindi un periodo interessante. Sicuramente chiami il rock di un certo, il rock pacifista, anche perché, certo, fondamentalmente hanno sempre andato avanti un discorso anche di pacifista. assolutamente, infatti poi tra l'altro così gli faccio un complimento in diretta anche il buon Alberto Zucconi, che comunque sta ascoltando qua vicino a me, ha quello che sta per dire, ha una voce abbastanza rock grunge, quindi appunto è venuto in mente questo, un po' la mia creatività, il mio stile è abbastanza abbastanza grunge, perché è un movimento che ho seguito parecchio in quegli anni, in diretta, perché chiaramente si parla di fine anni 80, primi 90, certo. E poi vabbè, con la morte di Kurt Cobain è un po' morto anche il movimento, anche se i Nirvana sono stati l'apice di quel movimento. Sicuramente nella creatività nella mia creatività c'è del grunge, poco da fare, quindi chiaramente una chitarra, una voce rock in inglese, in cui ci cimenteremo anche nel nuovo lavoro, però abbiamo studiato tutti i pro e contro di questo lavoro per renderlo, perché ad esempio il vinile ha una trasposizione dei pezzi in inglese, però ha dentro di sé comunque Dead Heroes, La Vendetta del Perdono, che sono fra i nostri due pezzi più forti, con I Giorni della Memoria anche, quindi sicuramente un riferimento a quel periodo c'è. E questa idea di farla in questa maniera stasera così e scaturita mentre da Piacenza arrivate verso Padova, oppure così? No, noi abbiamo anche avuto una serie di concerti live acustici. L'acustico l'avete fatto, insomma, non è una novità. A noi piace suonare in acustico. Ti ripeto, un peccato che non ci siamo tutti, perché poi chiaramente facendo anche vari lavori, diciamo, siamo un po' semiprofessionisti. I professionisti per assurdo non sono venuti stasera, che sono il batterista e la Melody Castellari, che salutiamo, Andrea Farinelli e Melody Castellari, poi se non mi sbaglio faremo una piccola parentesi anche del lato femminile dei Misfatto, che è lato migliore. poi ci date la registrazione, dubbiamente. La facciamo ascoltare, magari anche in ascolto Melody, magari via streaming audio. Lei lo sapeva, perché tra l'altro oggi l'ho vista, purtroppo stiamo appunto preparando il lavoro nuovo e quindi purtroppo non è riuscita a venire. Comunque Radio Blu Veneto la conosce benissimo e quindi vi saluta. Bene, vi saluta. Benissimo. Allora poi saluta il Veneto anche. Bene, grazie. Allora noi proseguiamo con l'ascolto di un altro pezzo da CD, sempre da 11 Eroi Morti, si intitola I Giorni della Memoria, eccolo qua. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. 21 e 57 minuti prima in questo istante, sempre Blu Radio Veneto, Blu Time Live, sempre con Flavio Bilato, Maurizio Calzavara e in questa serata Gabriele Finotti e Misfatto con questo album che si intitola 11 eroi morti e questo pezzo I giorni della memoria, che è chiaro anche il tema di questo, di questa canzone, il fungo atomico, si sente parlare della carne, della cenere, della lotta contro gli indiani d'America, quindi un'immagine dura delle guerre e della storia che si ripete sempre, dello sterminio, ahimè, sì, dello sterminio. E quindi sono i giorni della memoria, assolutamente sì, sono i giorni della memoria, quindi non il giorno della memoria come qualcuno vuole ricordare per, diciamo, gli ebrei, per la Shoah, per tutto quello che era avvenuto, ma ci sono più giorni della memoria da ricordare, ma l'uomo, mente fragile, non ricorda, e quindi la storia è fatta di corsi e ricorsi, e per cui ci sono sempre questi continui e costanti errori dell'umanità, tremendi errori. Sì, diciamo che hai sintetizzato al meglio il concetto di questa canzone come da pochi ho sentito fare. Hai precisato, sono i giorni della memoria, non il giorno della memoria, anche se noi abbiamo suonato, diciamo, in questi ultimi due anni è capitato di suonare per il giorno della memoria, ma preciso che comunque questo è proprio un messaggio del, diciamo, contro tutti i giorni della memoria passati, presenti e futuri, quindi in sintesi ribadisco, non si parla... Non contro i giorni della memoria. No, contro lo sterminio. Grazie, ragazzi, vedi che mi corregge. Alla mente più fresca e giovane, vedi che. Cogli o magari invece intendevi proprio contro. No, perché. No, nel senso passato, presente e futuro, perché l'indiano d'America, insomma, è uno sterminio che in pochi si ricordano. Una terra, diciamo, sua, diciamo, a cui. Nord America e non solo, Nord, Sud America, diciamo, tutta quella parte lì della terra è stata privata un po' del precedente abitatore. Il presente, diciamo, è il giorno della memoria che si ricorda, e il futuro, il fungo atomico, deve ancora arrivare, nel senso che il fungo atomico ce lo ricordiamo dal Giappone, dalla finale Hiroshima. Della seconda guerra mondiale, da Hiroshima e Nagasaki. Però è anche il vero segnale di quello che può essere la più grande arma che ha in mano l'uomo per autodistruggersi, non solo per sterminare una razza inferiore. Quindi il tema è questo, diciamo, come testo forte. Musicalmente è un discorso interessante, però, perché giustamente prima parlava Gabriele mentre il pezzo andava, ci sono i riferimenti al British, alla musica inglese, assolutamente inglese. C'è il pop, più che il pop c'è il punk, il rock, però visto dall'Inghilterra stavolta, assolutamente inglese. Tu citavi il fungo atomico. Molti anni fa, 1968-69, un gruppo che tu conosci, i Nomadi, riprese un pezzo dei Trokes e parlavano proprio del fungo atomico. Sì. È un pezzo bellissimo. Augusto aveva proprio la capacità di scegliere sempre dei pezzi sconosciuti, di fare delle grandi interpretazioni. E il fungo atomico era all'epoca 67, 68, 69, era già un tema forte, si parla degli anni 60. Ma secondo me deve essere sempre un tema forte, no? Perché comunque il ricordare costantemente certe situazioni deve essere fondamentale. Musicalmente l'hai detto, intanto saluto e ringrazio Lorenzo Poli, che è il produttore artistico del pezzo, che ha prodotto proprio in certa maniera, perché è stato il pezzo comunque del lavoro di 11 Rei Morti e anche di Eleven Dead Heroes, il vinile, perché è uno dei tre pezzi rimasto in italiano nel vinile, perché è un pezzo che non riusciva a saltare fuori a livello di, chiamiamo, band, Misfatto, compositiva, come doveva saltar fuori. Quindi ci ha messo le mani, diciamo, un importante persona che dell'ambiente musicale, ed è riuscito a tirare fuori queste sonorità, come dicevi, non tanto rock italiane o comunque, ma neanche prog rock, neanche pop, Ma sì, British. British, comunque, assolutamente British. Sia punk sia brit pop quasi. Sì, questa volendo. Chitarra lunga, questa nota lunga che tieni a bandolino, caro Gabriele. Perché hai deciso? Avete deciso perché doveva essere così in quel momento questa nota? Ma anche questa è stata un'intuizione, lo ammetto, perché da chitarrista bisogna dare a Cesare, anzi in questo caso a Lorenzo, quel che è di Lorenzo Poli, è stata una sua intuizione, perché in effetti a quel punto la canzone ha questo urlo di dolore, questo urlo al ricordo, alla memoria, e la chitarra è un po' il suo eco, quindi la trasporta, diciamo, quello che parla, è la voce umana, diciamo la... il suono trasporta la voce umana come un eco, appunto. Chiaramente dà un certo peso al pezzo. Assolutamente, dire. Fondamentale in quel punto. Bene, allora abbiamo anche un po' parlato di questo pezzo, I giorni della memoria, anche da un punto di vista tecnico di come è nato. Proseguiamo con quella che è stata la carriera artistica di Gabriele Finozzi e Misfatto, andando un po' indietro nel tempo, con una canzone tra le tante costruite negli anni che vi ha, come dire, diciamo, tirato su, fatto conoscere. Stiamo parlando di un pezzo forse dedicato a una donna, oserei dire, in questo caso Beatrice. Non è la Beatrice di Dante Alighieri? No. Questo pezzo fa parte, diciamo, della storia di Misfatto a praticamente 20 anni, perché del 1992-93, poi è stata riedita nel 2000 ed è una delle canzoni che continuiamo a fare da 20 anni, forse l'unica di quell'era, di quegli inizi anni 90, in cui il genere Misfatto era un po' più punk rock, adesso diciamo è più contaminato, comunque abbastanza personalizzato da certe sonorità. Beatrice era una donna, non ho mai capito, perché io ho fatto le musiche ma il testo comunque era del cantante di allora, sì. E sicuramente un testo in cui ho sempre avuto l'onore di appoggiare e di non tenere nascosto, perché comunque negli anni 90, almeno sicuramente nelle nostre zone limitrofe emiliane lombarde, è una canzone che comunque è rimasta conosciuta. Tu cosa dici, Alberto? Me lo confermi che sei di una generazione comunque più giovane? No, esattamente, Beatrice è il primo ricordo che ho di Misfatto, questo tanto anche per sottolineare un po' la nostra differenza d'età. Il primo ricordo, io avrò avuto 12-13 anni, prima volta che sentivo parlare di Gabini, Misfatto, così ero andato a vederli a Orzo Rock, che poi magari avremo modo di parlare, sì, due minuti più tardi, che è un festival piacentino, e mi ricordo tornando a casa che mi canticchiavo il ritornello di questa canzone e dopo anni sono finito a cantarla e mi ha fatto molto piacere. E vedi, si comincia così e si finisce così poi. No, piacevolmente. Si comincia così e non si sa dove si finisce. Ecco qua. E allora ascoltiamo questo pezzo rivissuto a distanza di molti anni. Beatrice, Gabriele Finozzi e Misfatto. Beatrice parla poco, cose che ho dimenticato, ma mi ascolta con pazienza come fosse una sentenza. Io non ho una soluzione, sono solo e sto male, non credo ai falsi brevi, voglio una rivoluzione, ma mi dico il tempo di tirare i remi in barca, di pensare poco e male per poter farla franca. Ah, io non ho una soluzione, voglio una rivoluzione, Beatrice. Io non ho una soluzione. voglio una rivoluzione con la mia faccia e taglia dentro le villette a schiera e per tutta la famiglia. Ora è tempo di urlare, far casino e mangiare aria, vomitare una risposta e sparare nella mischia. Ora mentre si fa sera e ho bisogno di un aiuto, Beatrice mi ricorda cosa sono e dove vado. Ah, io non ho una soluzione, voglio una rivoluzione, Beatrice. Io non ho una soluzione, Beatrice. Voglio una rivoluzione. Io non ho una soluzione. Voglio una rivoluzione. Io non ho una soluzione. Voglio una rivoluzione. Blu Radio Veneto. Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Allora abbiamo ascoltato Beatrice, Gabriele Finotti e Misfatto qui a Blu Radio Veneto fino alle 23 e poi scatta il momento di Rock Wave, l'onda del rock con una buona selezione di brani musicali. Vogliamo l'occasione per salutare anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco che questa sera non sarà qui poiché impegnato in altri luoghi. Ciao, ma Alberto. Lo salutiamo. E sappiamo del suo operato nel mondo di Blu Time Live. E allora, questo era un pezzo del 1992 con l'album Quel che resta. Diciamo che la produzione artistica appunto dei Misfatto cominciò nel 90 con Il peso dell'innocenza, poi con Risparmiateci del 1991 e con La bestia nera del 93, tra altre cose mai stampato per la vendita. Allora scatta la domanda: cosa è successo in quel periodo, Gabriele? Vabbè, sono finiti i soldi. Cioè, è sempre quel periodo lì, sì. 20 anni fa, quel 93 lì, anche la politica, tutto. No, per noi molto semplice, come avevo accennato prima, il cantante storico Luigi Boledi ha smesso di cantare. Abbiamo fatto, ricordo ancora, poi in realtà ha smesso inizio 94, un bellissimo concerto al Fuori Orario a Taneto di Gattatico, Reggio Emilia, un locale che tutti conoscono, diciamo, in zona. Tra l'altro avevamo proprio anticipato un concerto dei Nomadi, era stata una bellissima serata. I Nomadi, chiaramente senza Augusto, sì, ma i Nomadi con bravissimo. E alla fine concerto lui ha detto: ragazzi, non ce la faccio più. In effetti iniziava a cantare girato di spalle, queste cose un po' da persona che proprio aveva un difficile, però ha lasciato sicuramente delle belle cose, tra cui Beatrice che avete ascoltato, che abbiamo sentito adesso da che voi. Noi cerchiamo di rifare, appunto. È stato riedito nel 2000 nel nostro album Misfatto, lo facciamo tuttora dal vivo in versione comunque sempre punk rock. Abbiamo provato a riarrangiarla, una versione interessante è reggae, però il reggae non ci viene benissimo. Però in zona non ci sono più i Pittura Fresca. No, c'è Scardi. Sì. Peccato, c'è Scardi, fategliela sentire, magari gliela fa, che lo sa. Sì, poi c'è ancora Tony Moreto che che ha scritto un disco recentemente. Ah. Poi ancora Furio che da qualche parte, no? Sì, che sì, esattamente. Gira anche lui. Cioè, quindi esiste ancora l'elemento reggae. Storia, reggae. Storia. Scardi è un personaggio incredibile. Sì, quelli. Lo è ancora nell'ambiente. Certamente. Tra Mestre e Venezia, per cui ecco, insomma, bene, si vede ancora quello. Ambiente fertile quello. Ah beh, sì, sì, indubbiamente. Sì. Benissimo. Allora, salutiamo anche tutti i fan di Pittura Fresca. Sì, molto volentieri. Ci siamo divertiti tantissimo con quei pezzi, no? Sì, assolutamente. Quindi l'avete comunque fatto in versione reggae? Avete tentato? L'abbiamo tentato in versione reggae, però non, diciamo, in certi periodi, diciamo, anche con Alessandro Chiesa, che salutiamo anche lui come mio socio musicale nei Misfatto praticamente da metà anni 90 fino al 2010, ora abilmente sostituito dal giovane Alberto Zucconi. Qui, presente, Alberto ha una voce più rock e comunque il cantante è importante a cantare un pezzo, quindi ad Alessandro Chiesa aveva una voce leggermente un po' più pop. Quindi ogni tanto qualche versione di Beatrice in versione appunto reggae l'abbiamo preparata, però insomma se la facevano in Pittura Fresca era meglio. Era meglio. Beh, quando vedremo Scardi possiamo subito riferire. Fategli il link dell'intervista. Esattamente. Benissimo, allora ricordiamo ancora agli ascoltatori che per riascoltare appunto l'intervista, come si è detto poco fa, basta andare all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it e all'interno della pagina riservata a Gabriele Finotti e Misfatto ci sarà invece dell'ascolta alla diretta, come sta comparendo adesso il fatto di ascolta alla registrazione, poi accompagnato a questo link anche un link per accesso ad alcune foto che abbiamo scattato questa sera proprio per documentare l'evento radiofonico, perché si sa che la radio è bella da ascoltare ma qualche immagine è bella anche da vedere, non troppo però è così. Bene, allora un altro esperimento live questa volta per riproporre una canzone che avevamo ascoltato prima con l'atmosfera del CD, e quindi vediamo qual è la sua trasformazione in momento acustico. Quindi ancora una volta La Vendetta del Perdono, Gabriele Finotti e Misfatto. Ho bisogno di correre tra le foglie del mistero, tra i fondi di un uomo solo che si spezzano. Ho seguito rane nere, scappan verso il baratro, cadendo per noi, perdendoci poi. Né come me, né come ostaggi, né con le bombe potremo difenderci. Ora sarò come una strada ricoperta di eroi. Sono in cerca di perdono nelle fredde maniche, cavalcando bianche onde e cercandoti più in là. Poi cadendo dalle stelle ho scoperto sei bugie, pensando a noi, perdendoci poi. Né come me, né come ostaggi, né con le bombe potremo difenderci. Ora sarò come una strada ricoperta. Né come me, né come ostaggi, né con le bombe potremo difenderci. Ora sarò come una strada ricoperta di eroi. come me, né come ostaggi, né con le bombe potremo difenderci. Ora sarò come una strada ricoperta, né come me, né come ostaggi, né con le bombe potremo difenderci. Ora sarò come una strada ricoperta di eroi. La vendetta del perdono è un silenzio, un addio, mentre vedo allo specchio di chi sono figlio. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Gabriele Finotti e Misfatto, Alberto Zucconi alla voce. 11 eroi morti è il titolo del CD che stiamo presentando stasera, con qualche diciamo fuga da questo disco, ricordando anche le vecchie sonorità di Misfatto per l'appunto, e poi questa visione diciamo acustica di I giorni della memoria. Abbiamo ascoltato quindi due modi di essere. La vendetta del perdono, scusa la vendetta Maurizio. Del perdono, sì. È dato una, questa è la versione che avete fatto in questo momento, da un, mette in risalto una cosa, il ritornello melodico, la melodia, secondo me, fondamentale. Si sente bene, chiaramente nel disco agli strumenti, che non copre la melodia, però qua proprio viene fuori immediatamente. Questo è un discorso importante, la melodia bene. Sei un rockettaro, tutti siamo rockettari, però la melodia fa sempre parte del rock, c'è poco da fare. La melodia è fondamentale, secondo me, almeno dal mio punto di vista, nell'ascolto musicale, perché comunque è la colonna portante di una canzone, sono i tratti come di un viso, ecco. Un pezzo senza una melodia sarebbe un bellissimo corpo senza un viso, ecco, non avrebbe espressività. Quindi sicuramente il bello, ma a noi piace suonare acustici, anche perché la situazione dei locali comunque impone, dei locali medi impone il concerto acustico. Noi siamo molto versatili, quindi io mi metto con la chitarra, Alberto la voce, abbiamo una cantante che si chiama Melody Castellari, quindi è il simbolo della melodia, esatto, anche come nome, che tra l'altro è figlia d'arte. Saluto anche il grande Corrado Castellari, che è uno dei più grandi autori appunto della musica italiana. E poi abbiamo Pierpaolo Baglioni, così lo presento la band. Certo, Pierpaolo Baglioni, piano e organo, e poi tu presenti i tuoi coetanei. Andrea Farinelli alla batteria e Simone Cavallaro al basso. Quindi c'è il gioco è fatto, no? Un'unione fra diciamo due belle voci, un po' di esperienza e la grinta diciamo della gioventù, parte più giovane, esatto. Comunque questi sono i Misfatto che sentirete anche nel lavoro nuovo. Infatti la cosa che voglio precisare è che non a caso comunque quest'ultimo lavoro è stato chiamato Gabriele, come Gabriele Finotti Misfatto. Infatti lo trovate sia su YouTube, su iTunes, su tutti, perché comunque è un momento di passaggio, no? Perché comunque a livello diciamo creativo c'è stato un po' la fine di nei Misfatto di Alessandro Chiesa. Quindi il mio scopo principale, grazie con tutti questi nomi che abbiamo nominato, oltre che a tutta la parte di produzione artistica editoriale, abbiamo cercato di ricreare una nuova band e ci siamo riusciti. Infatti il nuovo disco si chiamerà Misfatto, mentre la parte più letteraria del nuovo libro che uscirà chiaramente Gabriele Finotti come autore. Quindi c'è una ripartenza praticamente. Esatto, cioè a livello di nome ho spiegato il perché questo disco, questi 11 eroi morti, anche qua nella sua duplicità, sì. Oltre 11 eroi morti, oltre Eleven the Heroes, era Gabriele Finotti e Misfatto. E qua nella versione che hai fatto adesso, la chitarra l'hai usata molto in modo percussivo, quasi un basso era la chitarra, dava quel sì. Tocco ad Alberto, entrava immediatamente. Alberto è una voce rock, abbiamo già sottolineato, però stavolta la voce roca riusciva a mediare, se mi può consentire l'espressione, con la melodia, e questa è una cosa positiva. Sì, assolutamente. No, ma Alberto è anche molto melodico, è molto versatile. I pezzi nuovi che sentiremo la prossima volta che ci inviterete, ma chiaramente con la band, chiaramente sarà, porteremo più personaggi, dai, sì, sì, sì, dai, dai, via. Vedremo, la direzione è quella, diciamo, più casi umani. Benissimo, allora, prima abbiamo appunto parlato di presenza femminile, quindi Melody Castellari, allora ci ascoltiamo un pezzo che la vede protagonista all'interno di 11 eroi morti. Questo è L'urlo secondo, eccolo qua. Alzate il volume. Sì. Sera Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Alberto, prima che cominciasse questo pezzo, ha detto alzate il volume. Aveva ragione. assolutamente sì, perché poi cioè è un pezzo che rock, dai. Sì, beh, bel muro, sì, c'è un bel muro, un bel muro di suono. Che un pezzo che dà molta, molta energia. Abbiamo sentito anche la voce di Melody Castellari che salutiamo. Che salutiamo, che veramente una bomba. Poi sul palco indietro su sti pezzi, è vero, no? Poi sul palco come interagite, Alberto? Che hai... sì, io sul palco, cioè suono anche sul palco, faccio seconda chitarra, quindi spesso sono anche impegnato tra chitarra, pedali, cose varie, mentre lei è veramente scatenata, farà 2-3 chilometri sul palco, anche in questo 4x4. Significatamente in questo pezzo come si comporta sul palco Melody? È proprio una front woman di quelle con due cose, sì, così spaventa l'avversario, diciamo che esatto. L'ascoltatore diventa l'avversario. In questo urlo secondo, molto urlato, di voce, di chitarra, tutto, cioè proprio c'è un'espressione massima di quella che è la voce degli strumenti, c'è una frase tra tutte che invita un po' a una riflessione: lo sporco che pulisce il mondo. Allora sì, questo effetto, ancora un controverso senso, no? Come prima la vendetta del perdono, adesso lo sporco che pulisce. Ma guarda, io intanto sono sempre molto contento che cogli dei punti importanti, perché da autore a volte si è un po' bistrattati, si sente di più la musica magari e le parole passano in secondo piano. In effetti lo sporco che pulisce il mondo è anticipato da i nodi fra i capelli, le unghie dei bambini, no? Nel senso, a volte i capelli, inteso come magari i capelli lunghi che porto ancora anch'io a 40 anni, o le unghie dei bambini sempre molto sporche, sono a volte lo sporco che pulisce il mondo. Anche qua mi ricollego al concetto di innocenza, no? Di portare un messaggio sempre di innocenza nelle parole. Questo brano tra l'altro è stato rimasterizzato e riprodotto in 11 Re Morti, ma ha avuto il suo esordio. Infatti uno si chiede, l'urlo secondo può sembrare una cosa evangelica, in realtà c'è anche un urlo 1, cioè in realtà è l'urlo 1 e l'urlo 2, perché sono tratti dal mio primo libro, appunto Caos 2000, che conteneva anche un CD musicale dove era presente l'urlo 1 e l'urlo 2 dedicato a quel grandissimo quadro che ha simboleggiato, diciamo, questo cambio verso il terzo millennio, che è l'urlo di Munch, che comunque, se ci pensiamo, nella sua è sempre stato un quadro sconvolgente, ma sì, con l'era dell'immagine è diventato veramente di una modernità devastante. Proprio è quel quadro. Anch'io che sono entrato a definirlo. Solo vederlo, no? Quindi, bravissimo, sì, esatto. Fa suono proprio. Sì, rumore, sì, suono, chiamiamolo come vogliamo. È veramente molto musicale nella sua idea di urlo. Sì. Gabriele, tu hai citato adesso Caos 2000, quindi facciamo un po' di breccia tra quelle che sono considerate le poesie del futuro per il presente passato, e quindi anche qui sempre lì. Tre periodi che vanno, diciamo, insieme, nonostante siano uno davanti, uno dietro e uno centrale. Ah, come accennavo Flavio prima in una pausa, Caos 2000 è un progetto che è partito dal 2000, dal cambio di secolo, svolgendo un'attività comunque semiprofessionistica musicalmente, quindi il tempo scorre e in realtà dovevo uscire prima per tante cose, tra intoppi della vita e situazioni varie, è uscito nel 2008 e ne sono stato fiero, diciamo, questa raccolta di poesie, appunto, sono dal futuro perché sono percezioni queste poesie, per il presente e passato perché nel momento in cui uno le legge è già passato il presente, ecco, l'idea è questa. nel voler fare una poesia, un libro di poesie che sicuramente non è una grande mossa commerciale, come sappiamo. abbiamo inserito un CD musicale, tra l'altro ben recensito come lavoro multimediale, così definito tra l'altro anche da Musica e Dischi di De Luigi, comunque un santone dell'ambiente. Purtroppo insomma non ha preso piede anche come confezione, come mossa commerciale, perché anche nei concerti anche tuttora chiedono ma è un libro, è un CD, no è un libro più CD, ah no allora no, se era solo un libro lo prendevo, ma prendilo lo stesso, ma la musica non interessa, oppure viceversa e addirittura dai. Ma c'è il DVD, cioè nel senso, però sicuramente posso essere contento di aver avuto su questo lavoro del 2008, che ha comunque mosso nel lavoro di anche 11 Eroi Morti due belle rimasterizzazioni come L'Urlo e come Caos 2000, tra l'altro presente anch'esso nel vinile come What Was Taken, anche lì cambiato con il nome e con il testo in inglese. Ricordiamo allora, Gabriele, Caos 2000 ha anche delle partecipazioni importanti che vengono anche citate proprio nella copertina del libro, che vede anche il cercare di ricostruire un puzzle, no? in questa figura che si vede nel libro, e quindi la partecipazione straordinaria di Fiordaliso, Fioretta Mari ed Enrico Ruggeri. È stato diciamo una bella soddisfazione, chiaramente fanno parte del lavoro musicale, leggono delle poesie presenti nel libro, nel CD musicale, quindi comunque sempre tutto presente online su iTunes o comunque su altre eventuali piattaforme. Il fatto di avere comunque la super voce di Enrico Ruggeri, che saluto anche se non vedo bene o male da 3 o 4 anni, anche se lo vediamo sempre, no? Comunque è stato un vero piacere, perché comunque si è cimentato nella lettura di quello che è il titolo del libro e quello che è il finale di un pezzo fondamentalmente prog rock, anche se i Misfatto comunque non sono una band strettamente prog rock. Poi diciamo Gabriele, Fiordaliso e Fioretta, sì, Mari comunque hanno fatto dei bellissimi recitati su tutto, diciamo, su altre poesie che sono vere e proprie canzoni all'interno di questo lavoro. Sì, poi alla fine della trasmissione inseriremo anche un pezzo che vale la pena ascoltare per intero, dura 11 minuti e 20 secondi, quindi ci sarà questa parte, questa lunga suite musicale di Caos 2000 con il finale appunto recitato da Enrico Ruggeri. Però non anticipiamo troppo i tempi, adesso andiamo ad ascoltare ancora un pezzo da CD, questa volta abbiamo scelto Stelle Gemelle Cadenti, e ascoltiamo e poi torniamo a commentare insieme. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Un bel pezzone anche questo, Stelle Gemelle Cadenti, Gabriele Finotti è misfatto con questo lavoro che è venuto a presentarci, 11 eroi morti, si intitola a questo punto Stelle Gemelle Cadenti, che sembra quasi un grido di speranza dopo tutto questo dolore, tutte queste controversie, le guerre, le violenze, sembra che alla fine ce la si possa fare. Gabriele. Sì, no, no, ma io sono una persona molto ottimista, cioè nel senso, Stelle Gemelle Cadenti però rappresenta l'undici, è una delle canzoni che rappresenta l'undici, no? Che è 11 eroi morti, comunque ogni canzone è legata al titolo, 11 eroi o morti, comunque rappresenta molto l'undici, perché Stelle Gemelle Cadenti è un po' questo, è il simbolo dell'11 settembre 2001, ecco. Sicuramente c'è molta speranza, sono passati anni, è una canzone che ha avuto la sua storia in questa prima decade, questa, ed è stata realizzata al meglio per il, non poteva mancare chiaramente in 11 eroi morti, una canzone legata comunque all'11 settembre. Ma anche musicalmente, visto che parlavamo prima con Gabriele, si sentiva questo odore, questo umore, questo sapore di Oriente, di arabo. C'era, sì, c'era, doveva essersi, sicuramente, doveva ricordare. Sicuramente il finale, l'unione, diciamo, di un certo suono chiaramente roccheggiante, occidentale, si incrocia con dei suoni, comunque almeno nella melodia, più orientali. Sì, ecco, leggermente quindi, orientali. E quindi chiaramente... non esasperati, però. Senza esasperare tutto, perché comunque, ripeto, non è assolutamente un disco estremo e che radicalizza i concetti. È un disco che deve che ha fatto un po' riflettere, fa riflettere nel suo ascolto. E comunque, sono fiero di dirlo, un disco, anzi due, perché c'è, sì, 11 eroi morti, c'è 11 Dead Heroes, sono i piccoli gemellini, quindi... È un album nell'album. Che devono andare assieme, però. Che vanno mano nella mano. Ecco, anche sicuramente, anche se nel vinile certi testi sono stati un po' alterati, però ancora, diciamo, motivo in più per chi ha ancora voglia di scoprire l'album, di ricercare, ecco, certi particolari. Bene, allora ricordiamo ancora una volta, per sapere qualcosa di più della musica e delle opere di Gabriele Finotti e Misfatto, potete andare sui siti appena prima citati, li ripetiamo, www.misfatto.it, poi ancora c'è il www.gabrielefinotti.it e poi il sito della Level 49, che è la, diciamo, la produttrice di questo disco, e poi per vedere anche tutte le varie date di concerti che voi tenete in giro ultimamente, dove sarete prossimamente? Ma diciamo, abbiamo fatto due anni intensi. Sì. No, abbiamo fatto l'ultimo concerto molto interessante al MAI di Faenza, al MAI 2.0 di Faenza, sul palco principale, che tra l'altro ha visto poi anche, vabbè, Mingardi, Banda Bardot, altri esponenti indipendenti italiani. Noi non siamo poi in realtà una band indie, cioè, però comunque eravamo a rappresentare Orzo Rock, che è il festival che ci rappresenta e che in un certo modo i Misfatto hanno anche fondato sulle rive del fiume Trebbia. Caro a Hemingway, bravo, del mondo. Sottolinearlo questo. Siamo, diciamo, fieri di aver rappresentato un festival che abbiamo anche cresciuto e con la collaborazione anche delle nuove generazioni stiamo portando avanti. Insieme a Carovana dei Festival, quindi eravamo presenti, Carovana dei Festival, che è un'unione dei festival, di sei festival, tra cui World Rock del Nord Ovest. è stata una bella esperienza. Per quello che riguarda i nostri live, invece, è una fase in cui siamo in studio di registrazione, è una fase in cui mi sarebbe piaciuto portare in anteprima Radio Blu Veneto il nuovo singolo Eleonore, quindi come live bene o male riprenderemo da marzo-aprile. Avremo live acustici per presentare quello che è il lavoro del sottoscritto letterario, che invece sarà un libro senza CD, così finalmente dopo le altre esperienze prima si fa un libro. Allora, così vediamo se adesso si verranno a dire: ma c'è un CD dentro? No, non no. C'è, si riesce dopo. Allora non lo prendiamo. Benissimo, quindi sempre il cane che si morde la coda poi. Esatto, no, questo vabbè, per ricondurmi al tuo discorso, Maurizio, che comunque è un periodo che non abbiamo detto, non siamo mancati. Non potevamo mancare al live sul palco principale del May 2.0 di Faenza, però ripartiremo con i concerti ufficiali nel 2014. Saranno tutti dei cameo da parte dei Misfatto a darmi una mano, a essere vicino a me, diciamo, a presentare il libro, quindi acusticamente, in ambienti appunto letterari, dalla libreria comunque al caffè letterari. Il concerto vero e proprio rock ripartirà con i nuovi lavori, con il lavoro nuovo che uscirà nel 2014, ecco. Benissimo, allora aspettiamo il 2014, aspettiamo il nuovo lavoro di Misfatto. E allora, un altro pezzo che parla di Lisbona, no? Una città probabilmente a te cara, Gabriele, visto che c'hai anche... Ebbene sì, ebbene sì, diciamo che appunto questo nuovo libro che si chiama La Chiesa Senza Tetto, che uscirà a breve, il sottotitolo che è 35 sogni a Lisbona. Tra l'altro doveva chiamarsi 35 sogni a Lisbona, tra parentesi La Chiesa Senza Tetto, però a livello editoriale uscirà per Editrice Zona, e a livello editoriale diciamo ha vinto di più stavolta l'idea del romanzo, perché non è un libro di poesia, è un romanzo. Esistono le poesie che sono, diciamo, viaggi psichedelici di questo personaggio. E questa canzone che facciamo adesso con la voce di Alberto, che sarà il cantante ufficiale di 35 sogni, dello stesso pezzo in anteprima, parla in effetti di Lisbona, delle sensazioni che mi ha dato nello scrivere questo libro. È una città veramente fantastica, artistica, ispiratrice, e quindi proviamo a suonarlo, ecco. Questa è l'assoluta anteprima, quindi chissà se un giorno sarà ricordato questo pezzo. Questa è la prima esecuzione live. Bene, lei allora è pronto, Zucconi? Noi la stiamo registrando. Benissimo, qui a Blu Radio Veneto, Gabriele Finotti e Misfatto, la voce di Alberto Zucconi. Questa è 35 sogni. Guardando e non parli, siamo soli o siamo persi, forse sta salvando il sogno, siamo immersi in una favola, storie passate ritornano, una bimba nella mia testa, un attimo come tempesta, un'anima impegnata. 35 sogni, 35 viaggi, 35 anni, 35 anime che si spengono. Ecco, arriva la strega. Aspetta davanti alla chiesa, tra scosse tutto trema, la terra respira sotto. viaggerò per mare sullo scorpione nave bianca. Qui nessuno comanda, mi salverà il fondo dell'oceano. 35 sogni, 35 viaggi, 35 anni, 35 anime, 35 sogni, 35 viaggi, 35 anni, 35 anime che volano sopra Lisbona, sopra Lisbona, sopra Lisbona, sopra Lisbona, Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. 35 sogni, la versione acustica in anteprima, diceva Gabriele, esatto, di questo bellissimo pezzo tra poesia e sogno, dedicato a Lisbona. A questo punto, tra poesia e Lisbona, ci metterei un bel Fernando Pessoa. Cosa dici, Gabriele? Col suo libro dell'inquietudine, in questo caso. Diciamo che il titolo, per gli amanti, poi io diciamo non mi definisco un letterario, perché comunque io in realtà ho una laurea scientifica che non svelo. Non svegliamo. Però possiamo leggerlo nella biografia. Esatto. non sono medico, ecco, sono gerarchicamente più sotto, comunque. però ho questa grande passione per la letteratura, e Pessoa mi rappresenta perché comunque è un grandissimo personaggio letterario che ha sempre detto, diciamo, che l'arte non è una professione ma una vocazione. In effetti, nel momento in cui spremi l'arte, la fai diventare commerciale, la stessa arte non ha più la vocazione istintiva, o comunque quella che è l'istinto primordiale che la rende tale. Che poi c'era un gioco sempre legato a Pessoa, no? Della serie, era multipersonaggio, no? Esatto, perché molte... era Pessoa, era Caerio, era Caeiro, era Doreis, era tanti nomi. Aveva mille identità. Si prendeva, era astrologo, sì. Astronomo, quindi... Passiamo un po' di tutto. Esatto, nel libro tra l'altro è un po'... per assurdo quello che guida un po' nel sogno il protagonista del romanzo. Un protagonista che comunque è un po' alterato a causa, vittima di una casta massonica che lo perseguita. Però vabbè, adesso non parliamo di questo. Volevo dire che il collegamento con Pessoa è prima di tutto nel titolo, che è 35 sogni, perché Pessoa nel 1918, tra l'altro, scrisse 35 sonnets. Sì, perché era ancora in Sudafrica, scusami. Non era più in Sudafrica, però lui si mise alla prova perché lui aveva questa abilità nella traduzione inglese. Lui era praticamente un madrelingua inglese, perché la madre portoghese aveva sposato un inglese, e poi sono andati chiaramente in Sudafrica, che era ancora inglese, quindi come dominio non era indipendente, è da poco, no? Sì, ecco. Quindi lui scrisse quest'opera, quindi 35 sonetti in inglese perfetti, e fu anche recensito benissimo, ma non ebbe il successo che voleva, è veramente un libro di poesie fantastico. E poi scriveva. Quindi il riferimento c'è alla Lisbona di Pessoa. Però c'è anche un po' della Lisbona che ho visto io da turista italiano, sì, infatti sì, sì, certo. Comunque nel libro il protagonista è un po' un turista, perché poi ognuno ha chiaramente la propria visione della, diciamo, della città, certo, del viaggio, ecco. Poi noi anche di Padova siamo particolarmente legati a Lisbona perché condividiamo, certo, lo stesso santo. Infatti nel libro è presente, tra l'altro, sì. È proprio il santo di Padova, sì. Lui. Sant'Antonio di Padova, mentre molti dicono Sant'Antonio da Padova, il che non è vero, no, ecco, infatti il Sant'Antonio, e sì, tra l'altro, sì, Pessoa è nato il 13 giugno, sì, giustissimo, che è il, cioè, diciamo, morte di Sant'Antonio, esatto, e che è la diciamo, a Lisbona si festeggia appunto Sant'Antonio, sì, Sant'Antonio, certo, su quella bella chiesa che c'è nella parte, sono tanti numeri, tante, sì, cose, sì, in, sì, comune. Bene, ecco, altre cose a proposito di morte, visto che abbiamo parlato di 11 eroi morti, si diceva Fernando Pessoa ha lasciato una, diciamo, una frase molto importante, adesso la recupero da internet ma l'avevo già letta molto tempo fa, e diceva: se dopo la mia morte volessero scrivere la mia biografia, non c'è niente di più semplice. Ci sono solo due date, quella della mia nascita e quella della mia morte. Tutti i giorni fra l'una e l'altra sono miei. Ecco, quindi tanto per condividere solo la parte del personaggio e non della persona. Sì, in questo caso. Questa non la conoscevo ed è bellissima questa citazione. Però nel libro lo riporto in un momento di realtà e non onirica, questa fase della data di nascita, che è il 1888, e l'anno in cui è morto, il 1935, perché confronto quello che è stato, diciamo, la sua vita, perché lui è nato nello stesso anno in cui era nato Salazar, che è stato uno dei più grandi praticamente dittatori della storia d'Europa, anche se in pochi lo sanno, perché il Portogallo si è liberato solo nel 1975 da quella che è stata una dittatura interna che andava avanti al 1932. E quindi riporto questo confronto fra quello che è stato un grande capo storico, diciamo, dittatore comunque di un grosso periodo del Portogallo, e di questo piccolo poeta nati nello stesso anno. Lui poveretto ha vissuto un po' meno, sì, però come, diciamo, fama, forse si ricordano di più di Pessoa, esatto, adesso. Come fama, sicuramente Pessoa ha raggiunto una fama maggiore. E poi, tra altre cose, ultimo messaggio legato a Lisbona: c'è anche la possibilità di farsi la fotografia vicino alla statua di Pessoa, che se non sbaglio è su un tavolino. Sì, il caffè a Brasileira. Sì, esatto. Sì, molto, molto bella anche quella figura. No, io l'ho fatta, chiaramente. cioè, non bisogna negare di essere dei turisti, certo, ecco, perché certo, comunque. Allora, insomma, è parte, sì, epocale del periodo, appunto. Abbiamo cominciato parlando di 11 eroi morti, il disco di Gabriele Finotti e Misfatto. Abbiamo continuato parlando di Caos 2000. Siamo finiti parlando anche di quella che sarà la nuova produzione letteraria di Gabriele Finotti, con qualche riferimento anche a un grande scrittore portoghese, appunto, a Fernando Pessoa. E di cui io ricordo il libro dell'inquietudine, tra altre cose, molto difficile ma molto bello per chi vuole avere diciamo, il valorizzare nuovi incontri letterari. Allora, noi ringraziamo Gabriele Finotti e ringraziamo anche Alberto Zucconi, che l'ha accompagnato, ottima voce, complimenti ancora. E allora, noi l'appuntamento ce lo rinnoviamo per il 2014. Ma sicuramente dopo questa piacevolissima serata, sperando di aver fatto addormentare pochi padovani e ascoltatori della vostra radio nel Veneto, torneremo, ecco, almeno da parte mia, da Gabriele Finotti e da tutti i Misfatto, anche gli altri della band, qualcuno in più, come dici tu, qualche caso umano in più lo portiamo. Sì, dai. Va bene, dai. Quanti, okay, microfoni avete, ragazzi? Guarda, tutti quei, contali. Dopo ti porto anche di là, ecco, un'altra sala. Benissimo, allora, abbiamo detto tutto, finiamo con l'ascolto di quel pezzo enunciato prima da Caos 2000, e quindi grazie Gabriele, grazie Alberto di essere stati qua, buona musica ai Misfatto. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie Flavio e Maurizio. Grazie a voi, bocca al lupo sempre e buonanotte. Benissimo, buonanotte. Grazie ancora. Grazie, allora, Blue Time Live può finire qui da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande caloroso ciao. Dopo questo pezzo ancora di Gabriele Finotti e Misfatto, arriva Rock Wave, l'onda del rock. State con noi, ciao. We'll be right back. secolo è passato o un secolo deve ancora passare? Rimbalzano vuote idee e dividono l'aria. Il reale diventa alieno e basta l'immagine di un obiettivo per essere Dio. Le foglie cadenti mi rapiscono. Mi aggrappo alle mie mani per non essere riciclato come nuovo quando invece sono usato, come il vento, reso glaciale da un colpevole inverno. Unica mi porterai via, sono qui non ancora spento. Piovono da te acque gelide che non vedo ma sento e mi coprirò con la pelle del mondo. Lenta una poesia è vittima dell'immagine. Veloce la droga dei popoli arriva al centro dell'universo fino a far esplodere la casa dei suoi figli. La vita, meno certa della morte, si corica stanca nel letto del tempo. Ma un secolo deve ancora passare nel ricordo immortale